24 mattino di Alessandro Milan. 7 e 20 minuti, cari ascoltatori, eccoci qui a concludere la settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9. Per i vostri sms al 349-238-6666. Nel nostro sondaggio oggi parliamo di politica e l'allarme lanciato dal presidente della commissione antimafia Pisanu quando ha parlato di persone indegne candidate alle liste nelle ultime amministrative. Noi vi chiediamo, secondo voi a chi spetta il controllo dei candidati alle elezioni? Vi diamo tre opzioni oggi: alla magistratura, ai partiti stessi oppure agli elettori con il voto. Votate su radio24.it, un tema a mio modo molto interessante, ne parleremo poi alle 8.30 come di consueto, e da cosa iniziamo lo sapete dalla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Venerdì 15 ottobre, le aperture sono diversificate dai quotidiani. Ora la svolta per la crescita, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, a partire dalla via del Consiglio dei Ministri, ieri era la legge di stabilità. Per il Corriere è molto più netta la questione: Tremonti impone la finanziaria. Anche la Stampa: Tremonti conferma i tagli tra le proteste dei ministri. Mentre Repubblica: legge elettorale, lite Schifani Fini. Questa è l'apertura politica. Vedremo altre aperture dei quotidiani. Libero e Il Giornale aprono sulla vicenda delle intercettazioni, su cui apre, avete sentito, anche il GR Panorama, che coinvolgono il portavoce della Marcegaglia, le minacce di Santa Emma, questo per Libero. Per Il Giornale: che burlona Confindustria. Ma vedremo, insomma, le varie aperture. Io vorrei partire però da un paio di interviste. La prima è una bella intervista che troviamo sul Fatto Quotidiano a pagina 14, la fa Beatrice Borromeo, intervista Ingrid Betancourt. Ricordate, il mondo si mobilitò per il suo rapimento durato anni in Colombia da parte delle FARC. È in Italia in questi giorni Ingrid Betancourt perché sta presentando il suo libro Non c'è silenzio che non abbia fine. Beatrice Borromeo l'ha incontrata e parte Ingrid Betancourt in questa intensa conversazione a parlare del perdono. Io ho perdonato, non volevo che i miei aguzzini mi trasformassero in un animale. Ho deciso che il giorno in cui mi avrebbero liberato volevo davvero essere libera, e l'odio è una prigione, l'ennesima catena. Due settimane fa, chiede Beatrice Borromeo, uno dei suoi carcerieri è stato ucciso, Mono Jojoy. Come ha reagito? Era uno dei più crudeli, ma mi sono sorpresa perché non ho provato alcuna gioia, non ho provato nulla. Ho pensato, ce l'ho fatta. Lei nel libro ha accettato serenamente l'idea di morire, è così? Sì, e non essere più atterriti da quella paura è stata un'enorme conquista. È successo dopo 5 anni di prigionia. Poi parla anche del rapporto, ovviamente, con la sua famiglia. È riuscita a recuperare il rapporto con i suoi figli? No, era impossibile. Ho lasciato 2 bimbi e ho ritrovato 2 adulti. Ho dovuto costruire un rapporto tutto nuovo. Certo, mi ha tenuto in vita cosa? Per colpa dei terroristi ho perso tutto, la mia casa, mio marito, il lavoro. L'unica cosa che non volevo perdere era il mio essere madre. I miei figli sono stati la mia speranza e quando sono tornata anche la mia vera ossessione. Loro si sono arrabbiati per il mio sequestro. Nonostante l'amore, erano furiosi, non con me, con la vita. Volevano che capissi che anche loro avevano sofferto, forse più di me. Poi ci siamo detti basta, andiamo avanti. Tornerà in politica? No, mi fa schifo. E infine crede che la sua gente abbia dimenticato quello che ha passato? Beh, possono provare compassione quando sanno che stai morendo nella giungla, ma non quando ne sei fuori. La compassione sparisce, una roba da malati. Così parla Ingrid Betancourt con il Fatto Quotidiano. Un'altra bella intervista che trovate su Repubblica, per la verità è stata fatta da Der Spiegel ed è tradotta da Andreas Lorenz, giornalista di Der Spiegel, a pagina 21 di Repubblica, un'intervista alla moglie del Nobel cinese. La moglie del Nobel cinese Liu Xiaobo è stata intervistata, Liu Xia, e è la prima volta che parla a un giornale internazionale, è la prima volta che parla al mondo. Posso solo riportare le parole degli amici di Xiaobo, primo cinese a ricevere il Nobel per la pace. Sono convinti che questo premio è un'occasione per cambiare il paese intero. Spero che il trattamento nei confronti di mio marito ora migliori. Lei ha mai parlato con lui dei rischi che correva? Oh, certo, ne abbiamo parlato. Io ad ora, quando è stato arrestato, ho detto a mio marito: non combatterò per te ogni singolo giorno, ma ti prometto che ti verrò a trovare una volta al mese. Adesso in realtà sto facendo cose che non avevo nessuna intenzione di fare. Mio marito quasi certamente non può neanche immaginare che non sono più una casalinga, come mi chiamava in modo scherzoso. E ancora, della Cina dice così la moglie del premio Nobel: le autorità di governo traggono piacere dalle sofferenze della popolazione, fa parte della loro natura, tanto più uno sta peggio, tanto meglio si sentono loro, è disgustoso. Come sta mio marito? L'umore è alto, ma ha problemi di stomaco, forse ha l'epatite B. Cucino per lui, gli mando latte in polvere e vitamine. Abbiamo anche il permesso di scriverci, ma le nostre lettere sono state censurate. Se vivo sotto sorveglianza, sì, sono in un condominio di proprietà del fisco, il mio ex datore di lavoro, la sicurezza ha un abitacolo all'uscita nord del cortile, ma finora gli agenti sono molto cordiali con me. Quando di recente l'Unione Europea mi ha invitato a presenziare un evento, mi hanno detto: sorella, parliamone, devi proprio andarci? E lei che ha risposto: certo che ci andrò, se non me lo impedirete. E poi dice: la polizia comunque mi segue spesso. Ecco, due belle interviste di respiro internazionale, due belle interviste a personaggi che o hanno sofferto, stanno soffrendo ancora molto, Ingrid Betancourt e la moglie del premio Nobel per la pace, le trovate su Fatto Repubblica. Sono partito da qui. E prima di tuffarci nella politica italiana, pubblicità e meteo. In primo piano. Siamo qui dunque a parlare della politica. Ieri è stato il giorno certamente dell'approvazione in Consiglio dei Ministri della legge di stabilità, la vecchia finanziaria. Varo lampo per il bilancio, questo è il titolo dell'articolo a pagina 6 del Sole 24 Ore di Dino Pesole, appena 30 minuti. Per approvare la legge di stabilità e bilancio che passa ora all'esame del Parlamento. Una discussione in Consiglio dei Ministri brevissima, una sintetica illustrazione di Tremonti cui è seguito il voto. Certo, questi sono i fatti. Il problema, come al solito, è quello che raccontano i retroscena di quello che è andato in onda, possiamo dire così, a margine di questa approvazione. Un'approvazione che il Corriere della Sera dice è stata imposta. Tremonti impone la finanziaria, questo è il titolo di prima pagina. L'elogio è di Bossi della Lega, ma c'è un gelo di tutti gli altri ministri. Marco Galluzzo racconta in maniera esplicita quello che è successo, appunto, legato a questo Consiglio dei Ministri. Per Tremonti è una tempesta in un bicchiere d'acqua, frutto della nostalgia di una legge finanziaria che non esiste più. Per il Cavaliere invece il Consiglio dei Ministri di ieri non è altro che il tentativo continuo di creare un incidente che possa mettere in difficoltà il governo. A suo giudizio, e non è un giudizio leggero, quindi questo sarebbe il giudizio di Berlusconi, il ministro dell'Economia Tremonti cerca un pretesto per arrivare a un governo tecnico e la lite con i suoi colleghi sarebbe l'esca. E sì, perché il problema è sempre questo: non c'è una lira, come io ripeto da giorni e come oggi è il titolo dell'Unità in prima pagina, non c'è una lira. E dunque ieri Tremonti ancora si è dovuto, è stato costretto a dire ai ministri: non ci sono i soldi. E secondo Marco Galluzzo questo crea un problema, ma secondo vari giornali un problema di grave tensioni. Ieri addirittura Tremonti si è seduto al Consiglio dei Ministri dicendo prima a Letta, a Gianni Letta: o mi garantisci che stanno buoni, cioè i ministri, o nemmeno mi siedo. La garanzia è stata data, messa verbale, Letta ha detto: vi chiedo e vi prego di non intervenire, ed ecco che così è durata mezz'ora. A Berlusconi non c'era perché è in convalescenza dopo l'operazione in Sardegna. Tremonti definisce con i suoi incomprensioni minime, se si esclude la Gelmini i soldi che mancano all'appello sarebbero poche decine o poche centinaia di milioni di euro. Certo che però, come si conclude l'articolo di Marco Galluzzo, ecco, forse oggi Gianni Letta e Angelino Alfano andranno da Berlusconi in Sardegna e forse anche a loro Berlusconi dirà quello che ripeteva ieri a chi lo chiamava: così non ce la facciamo a durare. C'è anche un'intervista al ministro Prestigiacomo a pagina 3 del Corriere, dice: questo è l'ultimo sì a scatola chiusa che abbiamo detto in Consiglio dei Ministri, ancora una volta abbiamo messo in sicurezza la stabilità dei conti pubblici, abbiamo dato fiducia, ma è l'ultima volta che approviamo pacchetti a scatola chiusa. Ed ecco la conclusione, tra l'altro, dell'intervista della Prestigiacomo, alla domanda: la presenza di Berlusconi avrebbe cambiato qualcosa in Consiglio dei Ministri? Sicuramente, personalmente avrei preferito che il Presidente ci fosse, ci siamo sentiti al telefono, spero si rimetta presto, il governo ha fortemente bisogno del suo presidente. Ma anche il Foglio, nel commento politico dal titolo Consiglio dei Ministri precotto, ecco qui: Tremonti nega oggi ai ministri i soldi che darà presto al cavaliere sviluppista. C'è questa frase ancora prima di iniziare. Giulio Tremonti, un po' scherzando un po' no, ha detto a Letta questa frase: entro in consiglio soltanto se mi garantisci che staranno tutti calmi. Allora evidentemente deve essere proprio successo. La verità, scrive il Foglio, è che il Consiglio dei Ministri ieri è stato la rappresentazione formale di una sceneggiatura scritta il giorno precedente ad Arcore da Silvio Berlusconi e Tremonti. I ministri, specie la Gelmini, che ha confessato di essere avvilita, tacciono sul loro malcontento perché così vuole il Premier, che ha raggiunto un super accordo col Ministro dell'Economia. Ed ecco qui l'accordo, forse quello che dice anche anticipa Repubblica. Il tempo del rigore potrebbe essere finito, come arriva il tempo per lo sviluppo, o meglio, come si trovano i soldi per lo sviluppo. Repubblica e anche Libero, per la verità, hanno la stessa impostazione. Repubblica con Roberto Mania, pagina 11, dice: ecco come Tremonti troverà i soldi. Si chiama il dividendo digitale. Tremonti ha deciso di giocare la carta della vendita delle frequenze digitali, non quelle che andranno senza asta e senza incassi per lo Stato ai grandi operatori nazionali, ma quelle ora occupate dalle emittenti locali per passare alla fase 2 del suo governo dell'economia, quella dello sviluppo. Lo schema è lo stesso dello scudo: non abbassare la guardia e cercare nuove fonti di finanziamento. D'altra parte l'Europa ci impone di trasferire dalla televisione, in questo caso le piccole emittenti locali, agli operatori delle telecomunicazioni le frequenze della banda 800 MHz, considerata la più pregiata. Altri paesi lo hanno già fatto. Negli Stati Uniti tutto ciò ha fruttato 19 miliardi di dollari, in Germania 3,5 miliardi, Francia, Spagna e Gran Bretagna si apprestano a mettere all'asta le frequenze nel 2011, finora l'Italia ha tergiversato, e racconta Repubblica, anche per evidenti interessi del Premier nel settore, ma Tremonti potrebbe accelerare i tempi ed entro fine anno annunciare la gara nel 2011, puntando dunque a mettere in cascina le risorse entro l'anno prossimo. E secondo Repubblica, dalla vendita di queste frequenze si recupereranno fino a 3 miliardi di euro, una parte dei quali andrà ovviamente a indennizzare i piccoli operatori che avranno dovuto cedere queste frequenze, ma dovrebbe rimanere il resto non meno di 1,5 miliardi di euro. Questi sarebbero i soldi per lo sviluppo. Come detto anche Libero, dice: da una parte Tremonti ha in mano il pallino del governo e dall'altra le frequenze in vendita, racconta Fosca Binker, alias altri non è che Franco Bechis, in realtà, frequenza in vendita per pagare lo sviluppo. Dunque questa sarebbe la strategia di Tremonti per recuperare soldi freschi. Certo, lo stop imposto al disegno di legge sull'università ancora fa molto discutere, ne parlerà Oscar Giannino alle 9. Sul Sole 24 Ore il vicepresidente di Confindustria che si occupa di questo settore, l'education, Gianfelice Rocca, fa un'intervista a Nicoletta Picchio a pagina 10. Subito i fondi per gli atenei: è grave rinviare un riassetto che allineerebbe il paese ai migliori standard. Su questa situazione, insomma, dice: ci vogliono soldi, purtroppo l'Italia è un paese ingessato proprio in un momento così delicato a livello economico globale, in cui si dovrebbe pensare al rigore ma anche alla crescita. E c'è da dire che, tra l'altro, sull'università è abbastanza critico, è molto critico, e mette sull'attenti il ministro Tremonti anche il Giornale, con l'editoriale di Vittorio Feltri di oggi: Tremonti, fuori soldi sull'università, rischia il governo. Scrive Vittorio Feltri: la Gelmini, per attuare il piano di risanamento, si è resa impopolare, è stata sbeffeggiata, insultata dai docenti avvezzi a nutrirsi alla greppia pubblica, da studenti trascinati in piazza dai sindacati, ne ha subite di tutti i colori per tenere fede agli impegni. si è dannata l'anima, si è sderenata per aggiustare e mandare avanti il carrozzone sgangherato, avrebbe meritato una medaglia, ma che, dopo tutto ciò che ha fatto per ripianare i bilanci senza penalizzare la funzionalità della baracca, ora si trova di fronte a un muro da sfondare a capocciate. Tremonti non le sgancia un centesimo. Occorrono 900 milioni, forse ne basterebbero 800, ma lui dice di non averli. E allora rischia tutto di saltare. Anzi, dice Vittorio Feltri, le accademie e la ricerca salteranno di sicuro perché non vivono d'aria, o si rinsanguano o chiudono. Intendiamoci, il ministro dell'economia non dispone della bacchetta magica, non fabbrica banconote nella cantina di casa sua. Ma, dice Feltri, mi stupisco che Tremonti non comprenda il problema. Risparmiare è giusto, come è giusto mettersi a dieta per riacquistare la forma, ma se uno, a forza di dimagrire, diventa anoressico, poi muore. Qui si gioca una partita delicata e decisiva. Vi immaginate che figura farebbe Berlusconi se il suo esecutivo andasse a ramengo su una questione basilare come quella universitaria? Ecco dunque l'appello con cui conclude Vittorio Feltri a Tremonti: non regali pretesti alle minoranze per attuare progetti torbidi e antidemocratici. Salvare l'università non è un lusso, ma una priorità assoluta. Non si gioca col fuoco. L'altro tema politico che sta molto, devo dire, creando polemiche è l'allarme lanciato da Maroni sul corteo, sulla manifestazione della FIOM domani. FIOM, l'allarme di Maroni, corteo a rischio. Il Manifesto lo mette in prima pagina, il titolo è "Una piazza da paura all'interno", mentre in prima pagina il titolo del Manifesto... Lo troverò, la prima pagina del Manifesto, prima o poi la troverò. Eccolo qua, Maroni, sindrome serba, una piazza da paura, con il commento di Tommaso De Berlanga che scrive: Maroni prevede infiltrazioni e scontri, è una minaccia? Lo stesso Maroni però fa un'intervista a pagina 3 di Repubblica: bisogna isolare i violenti, il sindacato sia responsabile e ora mantenga il controllo. Un ministro a tratti anche arrabbiato dice: basta darmi del nazista. Alcuni centri sociali, il problema non è la FIOM, ma alcuni centri sociali che possono infiltrarsi, dice Maroni. Sappiamo per esempio che sta arrivando quello di Padova, il Pedro, che ha occupato Confindustria, la sede di Confindustria a Padova. Possiamo permettere che lo facciano pure a Roma? Se ci saranno i disobbedienti di Casarini, sono curioso di sapere cosa faranno. E alle accuse di dire condizionare, lei vuole condizionare la manifestazione di domani, dice: è una sciocchezza, sempre i soliti come quel De Magistris a dire queste cose in giro. Io mi sono stancato di chi mi accusa di essere un nazista. Io voglio solo che tutto si svolga pacificamente, ci sia uno scambio di informazione con gli organizzatori. Ma certo, se vengo accusato da qualche giornale di violare la Costituzione, essere un colluso con la mafia, essere un nazista, ancora lo ripete, allora qualcuno può pensare che io sia da eliminare ed è il clima del paese che può provocare incidenti. Mi riferisco a una serie di episodi, Schifani, Bonanni, Ichino. Io quegli episodi non li giustifico e non li sottovaluto. So che si stanno muovendo anche quelli di Ascatasuna a Torino, quelli che tirarono in questo centro sociale il fumogeno a Bonanni. Devo preoccuparmi oppure no? Insomma, questo è l'allarme lanciato dal ministro Maroni. Il traffico. In primo piano. Cene tra bestemmie e minacce. È l'ora dei signori della guerra. Questo articolo di davvero retroscena della politica lo trovate sul Riformista a pagina. In prima pagina, poi continua a pagina 3, firmato da Fabrizio D'Esposito, il Big Bang del Partito dell'Amore, vale a dire il Popolo della Libertà. Insomma, Fabrizio D'Esposito racconta: nel Partito dell'Amore della Vita è sempre più di moda bestemmiare. L'ultima bestemmia viene attribuita a Fabrizio Cicchitto, vale a dire il capogruppo alla Camera del PDL, all'acme del litigio con Ignazio La Russa in una cena che si è tenuta martedì sera all'Hotel De Russi a Roma. L'epiteto blasfemo è insomma porco e vabbè. Una cena condita di bestemmia. Berlusconi a un certo punto racconta, Fabrizio D'Esposito, di questa cena nella quale La Russa arriva litiga subito con Cicchitto e dice: Berlusconi, mi dica chiaramente che vuole farmi fuori, so che parla male di me in giro, se così stanno le cose io me ne vado, tra Camera e Senato posso contare su 54 parlamentari, faccio i gruppi autonomi come fini. A quel momento, in quel momento, la reazione di Cicchitto è veemente: tu non hai capito un ca, porco. Insomma, tutto questo ad alta voce. Non è che abbiamo fatto il Popolo della Libertà per fare comandare solo te. Questo racconta il Riformista nell'articolo dal titolo Cene tra bestemmie e minacce. Vabbè, noi parliamo di politica in un altro senso oggi, ricordo, nel nostro sondaggio, vale a dire l'allarme lanciato da Pisanu, presidente della commissione antimafia, che ha detto: troppi indegni nella politica. Oggi tra l'altro Carlo Lucarelli, nella sua consueta rubrica in ultima pagina dell'Unità di venerdì, nel commento Il grigio della politica, parla proprio di questo. Prendiamola sul serio la denuncia del presidente Pisanu. Molti di quei candidati sono irregolari, insomma sono seduti su poltrone di potere almeno locale, persone delle quali è impossibile avere fiducia, un alone grigio che circonda la politica. Però Lucarelli pone poi una problematica nel finale del suo commento, che è di questo tipo: la politica non la fanno solo i partiti, la fanno anche i cittadini. Che certe persone siano impresentabili si sa, soprattutto a livello locale, dove la gente si conosce. Allora come facciamo a lamentarci delle ruberie, delle lentezze, dei soprusi e anche della mafia, senza accusare nessuno, per carità, se certa gente continuiamo a votarla e una volta eletta e scoperta non facciamo nulla per cacciarla via? È proprio quello che è il tema del nostro sondaggio. Secondo voi, di chi è la responsabilità di controllare? La vi poniamo tre opportunità, tre scelte: dei magistrati, dei partiti oppure degli elettori con il voto, visto che poi continuava a votarlo, soprattutto a livello locale. Sappiamo chi sono i candidati molto spesso. Trovate moltissimo, come ho detto in apertura, sui giornali, anche titoli di aperture, per esempio di Giornale Libero, ma oggi anche l'inchiesta di Panorama, sulle vicende ancora dei presunti dossier, delle presunte minacce, delle intercettazioni, di quello che coinvolge oggi Panorama. Esce con un'accusa molto forte nei confronti del portavoce della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, cioè l'accusa di avere minacciato in passato di non pubblicare un servizio, altrimenti facciamo la guerra al governo. Questo è il virgolettato che ha attribuito al portavoce della Marcegaglia. A pagina 22 del Sole 24 Ore Nicoletta Picchio racconta la reazione che abbiamo sentito anche nel comunicato di Emma Marcegaglia. Ogni impresa iscritta a Confindustria può contare sul fatto che i giudizi che esprimo come presidente non sono mai dipesi né mai dipenderanno da quello che i media scrivono o non scrivono su di me. Chiunque ritenga il contrario sbaglia o non parla a mio nome. Questa è la posizione del presidente di Confindustria proprio su questa copertina del settimanale Panorama, l'articolo all'interno nel quale si sostiene che il portavoce Rinaldo Arpisella avrebbe chiesto di escludere da un servizio il nome di Emma Marcegaglia dall'articolo, in caso contrario non facciamo, come dire, l'intervista già concordata, e minacciando anche di andare contro il governo. Ci sono polemiche, appunto, Giornale Libero attaccano su questo, c'è le smentite, ci sono il Fatto Quotidiano invece si concentra sulle telefonate con il vice direttore del giornale, nell'articolo di Antonio Massari, altro che scherzo, cioè non era uno scherzo, secondo il Fatto Quotidiano, le minacce del giornale nei confronti del presidente di Confindustria su un presunto dossier. Insomma, trovate ancora tanti articoli su questo. Io voglio andare alle segnalazioni conclusive. La prima la trovate sul Quotidiano Nazionale: ho vinto 22 milioni di euro, che sfortuna. Esce allo scoperto per la prima volta un ex operaio della Tosi, 70 anni, Virginio Salmo Iraghi, che nel 2003 centrò il Superenalotto. E racconta la più classica degli scenari, vale a dire: ho vinto 22 milioni di euro, ma non pensate che sia una fortuna. Sì, mi sono tolto molti sfizi, molti lussi, ho soprattutto messo a posto la famiglia, viene immortalato anche con una Ferrari fiammante, una testa rossa, ma dice: se l'infarto non vi viene sentendo uscire i numeri, vi può venire dopo, vedendo a quanti e quali guai si può andare incontro. Non bisogna dire nulla, neanche agli amici, ai parenti più fidati. Non maledico certo il giorno in cui ho vinto 22 milioni di euro, ma Ci sono disgrazie peggiori, ironizza, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Ho i cani nel giardino, sporgo denuncia ai carabinieri, mi bruciano l'auto, ho le telecamere davanti a casa. Una somma di denaro così grossa non è solo una gioia, ma provoca anche dolori. Ho vinto 22 milioni, che sfortuna. Sul quotidiano nazionale. Vabbè, chiudiamo con un sorriso. Gene Gnocchi rompi palloni, ogni tanto ve lo leggo dalla Gazzetta dello Sport. Il leghista Borghezio infuriato con gli ultra serbi. Non mi hanno invitato. Il GR 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti, eccoci qua. Protagonista della nostra intervista è l'onorevole Sabina Rossa del Partito Democratico, che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei. Onorevole Rossa è figlia di Guido Rossa, sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 79 dopo che aveva denunciato un collega che distribuiva volantini brigatisti. Senta, onorevole, una delle persone collegate a questo omicidio è Prospero Gallinari, che ora potrebbe ottenere la liberazione condizionale. Il magistrato che deve decidere ha deciso di convocare, prima di decidere sulla liberazione, i parenti delle vittime, tra cui sua madre, in realtà è andata lei. Lei come giudica questa convocazione? Ma io credo che quest'ultima modalità, perché è la prima volta che accade, adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che vede appunto la convocazione presso gli uffici territoriali della Polizia di Stato delle vittime, dei parenti delle vittime, per verbalizzare sommarie informazioni circa la concessione di perdono a Prospero Gallinari, quindi verso questo o quell'altro terrorista, credo sia un metodo insopportabile innanzitutto per le vittime e i familiari e mi permetto di aggiungere anche barbaro. Cioè, sta dicendo che il magistrato vi chiede, lei gli ha chiesto, lei è disposta a perdonare Gallinari? No, il magistrato ha inviato la richiesta alla questura, okay. Alle questure delle varie città. E io sono stata convocata presso gli uffici di prevenzione e sicurezza territoriali della polizia e mi è stato richiesto di verbalizzare, quindi le mie dichiarazioni circa sommarie informazioni che riguardavano la concessione di perdono verso Prospero Gallinari. Perché? Allora, dicevo, oltre a essere un metodo davvero insopportabile, soprattutto non è richiesto dalla legge, perché per la concessione del beneficio della liberazione condizionale sono tre i requisiti che il magistrato deve accertare: il comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento del condannato, che sia decorso il tempo di espiazione prescritto dalla legge e che sia stato effettuato il risarcimento del danno. Questo per quel che riguarda la legge. Contrariamente a quanto affermato in passato dalla giurisprudenza di merito, non è richiesto il perdono della parte offesa come condizione necessaria. Questo è in punta di diritto, però le chiedo, onorevole, spesso vengono accusati i magistrati magari di non aver avuto rispetto nei confronti dei parenti delle vittime in caso di liberazione anticipate o di concessioni di benefici. Non vuole riconoscere in questo caso una sorta di scatto, non so, umanitario da parte di un magistrato che deve decidere, dice fatemi sentire prima che ne pensi. Ma io rimango ancorata a ciò che richiede la legge, perché poi ognuno può fare le valutazioni di merito che crede e soggettivamente le può commentare, ma la legge non richiede il perdono, soprattutto, come dicevo, non è una condizione necessaria. Perché una volta che sono stati accertati i requisiti di cui ho detto prima, il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di concedere la liberazione condizionale e non si richiedono altri elementi che non sono riconducibili al comportamento del condannato, come potrebbe ad esempio essere una sfavorevole impressione che la concessione del beneficio può suscitare nell'opinione pubblica, oppure la reazione dei parenti della vittima. Io credo che il nodo della questione resti in queste due parole, cioè l'accertamento del sicuro ravvedimento. Perché anche se la più recente e prevalente giurisprudenza ai fini dell'accertamento del ravvedimento va a privilegiare parametri obiettivi a quelle che possono essere invece indagini di tipo psicologico, rimane che viene valutata come una manifestazione del condannato di sanare le conseguenze del delitto. Quindi veniva valutata con questi contatti epistolari che i condannati erano obbligati a instaurare verso le vittime. Questo qui siamo arrivati a un punto veramente non richiesto. Assurdo. La richiesta io, di perdono. A questo proposito avevo presentato anche una proposta di legge per sostituire le parole sicuro ravvedimento con un'altra formula, e cioè che il condannato che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all'articolo 27 terzo comma della Costituzione, che è importante, che ci dice che la pena deve essere finalizzata al reinserimento, alla rieducazione, può essere ammessa alla liberazione condizionale. E credo che i parenti e le vittime debbano essere lasciati fuori da questa decisione. Le chiedo in conclusione, molte hanno riferito a quello che gli episodi che avvengono in questi giorni, anche le contestazioni, sappiamo il ministro Maroni che ha detto domani attenzione al corteo della FIOM, parlano di possibile ritorno di quegli anni lì, quelli in cui suo padre è stato ucciso. Lei che ne pensa? No, io non vedo un ritorno di quegli anni. Sicuramente ci sono momenti in cui la violenza è presente a livello verbale, è presente nei gesti, che può essere anche il gesto del lancio di un uovo. Non vedo la differenza con altri lanci. Credo che debba comunque esistere e essere presente e essere accettato anche il dissenso, e le modalità del dissenso probabilmente devono essere altre, però non vedo un paragone con gli anni di piombo, per fortuna. La ringrazio per essere stata con noi, onorevole Sabina Rosa, ovviamente buona giornata. Grazie a voi ascoltatori. Grazie. Il Partito Democratico, ci fermiamo per pubblicità e meteo, e poi parliamo di politica. L'allarme lanciato dal presidente Commissione Antimafia Pisanu, che ha detto troppi indegni politici nelle liste elettorali. Noi vi chiediamo, secondo voi, chi deve controllare? Oggi nel nostro sondaggio vi proponiamo tre possibilità: la magistratura, oppure i partiti stessi, oppure gli elettori con il voto, come oggi anche Carlo Lucarelli scrive sull'Unità. Gli elettori col voto. Votate su radio24.it oppure 800 24 0024. Indegni nella politica, che ne pensate? 24 mattino. E allora alle 8:34 minuti il presidente della Commissione Antimafia Pisanu ha detto ci sono troppe persone indegne alle ultime liste amministrative. È il sondaggio che vi chiediamo oggi. Secondo voi a chi spetta il controllo sui candidati? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero. E oggi vi diamo tre possibilità: alla magistratura, ai partiti stessi, oppure agli elettori con il voto. Vi state dividendo: il 29% dice la magistratura, il 34% ai partiti, il 37% agli elettori. Oggi Carlo Lucarelli sull'Unità dice: e gli elettori che fanno? Gli elettori che sanno a livello locale chi viene candidato, perché non giudicano col voto, dando o no il voto a quei partiti che presentano persone considerate indegne? Sentiamo Pisanu bene che cosa ha detto. L'immagine complessiva che se ne ricava è che la disinvoltura nella formazione delle liste sia, ahimè, molto più allarmante di quella che noi abbiamo immaginato. Sono liste gremite di persone che non sono certo degno di rappresentare nessuno. Persone, liste gremite. Allora, saluto Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno. E saluto Clemente Mastella, eurodeputato. Buongiorno Mastella. Buongiorno. Lei che direbbe, a chi dà il potere del controllo? Ai partiti, alla magistratura o agli elettori? Ma basta fare una legge e si stabilisce a chi dare questo tipo di potere, cioè al di là del codice deontologico, è una cosa importante. Solo sai, io ho assistito, per quanto mi riguarda, una strana bizzarria, visto che si parla di degni indegni. Io sono l'unico segretario di partito che è stato condannato a 150.000 euro perché tolsi dalle liste regionali una persona che oggettivamente volevo candidare alle regionali, ma mi arrivò 3-4 giorni prima delle elezioni un fascicolo che riguardava questa persona, che era imputato di alcuni reati, violenza carnale e qualche altra cosa di questo genere. Io lo tolsi dalle liste. Qui si rivolse al giudice penale, il quale gli disse: con questi reati dove vai? E quindi, come dire, non indagò su di me e prosciolse, eccetera. Il giudice civile, ritenendo che questo ha avviato la campagna elettorale, mi ha punito e ho pagato 150.000 euro. Cioè, veramente è una cosa incredibile da questo punto di vista. Perché era già in lista. Però se lei avrà visto ieri l'Unità, ha messo tutte le varie persone, ha messo dentro anche sua moglie, insomma, nella lista delle persone che hanno problemi giudiziari, sono stati candidati. Mastella. È caduta la linea. Vabbè, lo recuperiamo. Stavo in viaggio, Sergio Rizzo. Sì. Eccoci qua. Allora, ieri tu hai scritto: da Napoli a Vercelli, ecco i candidati condannati che portavano voti. Insomma, perché questo allarme di Pisano? Addirittura liste gremite di persone indegne. Ma diciamo, mi verrebbe da dire perché non ci hanno pensato prima. Perché, come sappiamo, anche le liste che sono state poi fatte per le ultime elezioni politiche avevano tanti di questi problemi, chiamiamoli così. Sì. Ora è abbastanza sorprendente che ci se ne accorga adesso, e non per esempio al momento in cui queste liste sono state compilate. Io mi ricordo che quando diciamo in vicinanza, no, nell'approssimarsi delle elezioni amministrative, e i giornali scrissero di questi casi, ne raccontarono decine, quelli che sono stati citati l'altro giorno, l'articolo che ho fatto io, ma anche negli articoli che sono stati fatti da altri colleghi, sono soltanto alcuni, perché oltre, diciamo, alle vicende delle persone cosiddette condannate, che diciamo rientrano nel codice di autoregolamentazione che è stato varato dalla Commissione Antimafia. Questo non so se gli ascoltatori lo sanno, ma appunto c'è un codice in base al quale chi ha avuto una condanna non dovrebbe essere candidato. Cioè candidato. I partiti dovrebbero astenersi dal metterlo in lista. Ma perché dovrebbe? Perché cioè non funziona come legge, è un codice, quindi non è una legge, o lo rispetto perché, oppure no. Giustamente diceva Mastella, che abbiamo recuperato. Dal suo punto di vista non c'è una legge, quindi nessun partito si ritiene obbligato a Questo sì. Però Sergio, no? Fammi tra l'altro salutare, oltre a Mastella che l'abbiamo recuperato, c'è anche, visto che tu ieri l'hai citato in apertura dell'articolo, Pietro Diodato, che è consigliere della regione della Campania del Popolo della Libertà. Buongiorno Diodato, ci sta ascoltando. Sono subito da lei, però visto che mi ha ripristinato Mastella che è in viaggio, Mastella leggeva ieri l'Unità che anche sua moglie è stata citata nella lista di cosiddette persone con pendenze giudiziarie, insomma, messe in questa lista indegne. No, è ricaduta ogni volta. Che cito la moglie di Mastella, no, ma sta in viaggio, adesso lo recuperiamo. Allora, Pietro Diodato, eccoci qua. Lei, secondo la prefettura ha segnalato questa cosa, il 18 gennaio 2008 ci sarebbe, io non capisco perché il condizionale, ce lo dica lei onestamente, una condanna passata in giudicato per disordini scoppiati nei seggi elettorali la sera del 13 gennaio 2001, una condanna a un anno e mezzo con la condizionale e con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. È così la sua situazione giudiziaria? Sì, io ringrazio ovviamente Sergio Rizzo per la citazione, anche se credo destasse curiosità il fatto del mio abbinamento elettorale con il ministro Carfagna, quindi per questo sono... Però questa situazione, com'è che lei interdette pubblici uffici per 5 anni, se è potuto candidare, è stato anche eletto? Ma io ho la sospensione della pena. No, ho capito, poi però c'è un fatto. Interdizione ai pubblici uffici, cioè... No, c'è la sospensione condizionale della pena, quindi insomma il prefetto è stato troppo zelante, tra l'altro un prefetto che sta a Napoli da una decina di giorni. Cioè lei non si sente un indegno, insomma, il mio reato elettorale politico, se lei ricorda, nel 2001 si votava solo di domenica, con 2 cabine in ogni seggio, ci fu una ressa fino a mezzanotte ed oltre, cioè sul banco degli imputati ci doveva andare l'allora ministro dell'interno Bianco, quindi insomma, se poi vogliamo catalogare anche questi tra i reati per indegnità, insomma, allora andiamo a piantare. Perché lei dice ci dovrebbero essere anche nel caso di dire c'è reato e reato? Il mio è un reato politico, poi insomma, tra l'altro vorrei ricordare a Sergio Rizzo che ha scritto su di me insieme a Stella, io sono quello che ha fatto scoppiare lo scandalo degli stipendi d'oro a Napoli, è una storia da questo punto di vista, però siccome noi siamo quelli che per prendere preferenze ci dobbiamo sporcare fino alle ginocchia, entrando nel fango, diventa difficile, insomma. Comunque parliamo di questo tipo di reato. No, ma adesso Rizzo replicherà. Ci provo per la terza volta. Mastella c'è con noi, sì. Mastella. Io ci sono, però purtroppo non sono riuscito ad ascoltare. No, lo so, però le dico, l'unità ieri ha citato anche sua moglie nella lista. Sì, no? Però non vedo qual è la ragione per cui, tranne la cattiveria di natura politica e il pregiudizio, mia moglie non rientrava tra i reati per i quali non doveva essere candidata. Innanzitutto, poi le voglio dire una cosa. Vedo oggi sui giornali che il Magistris pare verrà rinviato a giudizio perché mise in croce me in quanto sto cellulare, Mastella, ma dove si trova sto cellulare? Mannaggia, sta in viaggio, sta in viaggio, ma si ferma a costi 5 minuti, sta fermo. Sta sempre trascurando in tutto, anche la No, è un disastro. Volevo dirle, dica. Che cosa è successo? Il GIP ha detto che su di me aveva avviato un'indagine di magistrato e non di reato, il che significa che un magistrato, se persona seria, può mettere in croce anche il suo ministro, come era in quel caso, il ministro della giustizia, senza che ci fosse motivo di reato. Allora voglio dire, se lasciamo alla possibilità che diciamo un magistrato, ora ci sono il 99% di persone per bene, i magistrati che ho conosciuto nella mia attività, ma c'è anche qualcuno alla De Magistris che sicuramente si è dimostrato essere degno di fare le cose che era giusto che facesse, e io ero accusato in quella circostanza finanche perlomeno prima notizia agenzia che appartenessi a logge segrete, così, abuso d'ufficio, sì, corruzione, sì. Poi si scopre dopo un anno e mezzo che io non c'entravo un cacchio. Intanto prima dell'anno e mezzo avvengono le elezioni, che fai? Io sono espulso da questo punto di vista e non sono candidato. E beh, non mi pare una cosa seria, soprattutto quando siamo in presenza di un atto di pregiudizio giudiziario. Rizzo, rispondiamo. Senta, sai che cosa è capitato nella mia esperienza? Sì, che cosa? E io andai dal prefetto per sottoporgli la lista dei candidati e dissi: guardi, io non ho elementi per sapere se uno è connivente o non è connivente, se per venire, mi dica lei. Mi disse: e io come faccio a dirle che è una cosa di questo? Chi mi autorizza a dare dati personali su questo? Ma su questo, allora, però, però è interessante. Una volta dal magistrato, che perché ha tolto e uno. Questo magistrato fa interviste, fece interrogazione alla Camera, tutti i miei ragioni. Intanto, io ho pagato sull'unghia 150.000 euro, per essere chiari, in prima istanza, perché bisognava subito pagare. Allora, da questo punto di vista, io credo che la maggior parte dei partiti non abbia nessuna voglia di mettere in lista persone poco serie, se uno sa che quella persona è poco seria. Ma secondo me hanno fatto anche magistrati, no, con persone poco serie. Ho capito, ma io ho il sospetto, ma da qui voglio ripartire da Sergio Rizzo che risponderà a Diodato, che in realtà molto spesso, ma brutalmente, ma perché questa è la politica, si mettono in lista le persone che portano i voti, perché la politica si fa con i voti, innanzitutto si contano i voti. Forse i partiti, a livello locale, se una persona porta tanti voti, sono disposti a chiudere un occhio. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora, secondo voi chi spetta il controllo sui candidati indegni, come ha detto Pisano alle elezioni? Per ora sempre il 30% di voi dice la magistratura, il 34% i politici, cioè i partiti, e il 36% gli elettori. Allora, Sergio Rizzo, devi rispondere sia a Diodato che dice c'è reato e reato, e poi io ho la sospensione condizionale, e poi a questa cosa, insomma, che i partiti cercano i voti innanzitutto, o no? O penso male io? Dunque, intanto bisogna intendersi. Il giudizio della magistratura ha un senso, oppure diciamo che non ha alcun senso, e allora poi ognuno fa quello che vuole, no? Da questo punto di vista bisogna capire, cioè se c'è un'interdizione ai pubblici uffici, poi la sospensione condizionale, sì, d'accordo, ma quello vale per la pena. Non credo che valga per l'interdizione dei pubblici uffici. Però no. L'idea che ci sia reato è reato, cioè una rissa. Da un certo punto di vista è anche giusto. No? Io, per esempio, quando si fa tanta propaganda dicendo quelli che hanno una condanna definitiva non devono essere messi in lista, secondo me non è proprio correttissima questa cosa, perché ci sono effettivamente dei reati, per esempio d'opinione, che facciamo i reati? Chi è stato condannato per reati d'opinione non può candidarsi. Insomma, secondo me queste sono cose che dovrebbero essere anche valutate, no? Sull'altro punto, cioè i partiti che lo sanno, Diodato, che saluto peraltro, ha ha fatto un discorso, cioè, per certi punti di vista assolutamente comprensibile. Dice: ma bisogna sporcarsi le ginocchia, no? Entrare nel fango fino alle ginocchia. Però purtroppo quando uno entra nel fango fino alle ginocchia finisce, ahimè, per sporcarsi. E quindi questo è un po' il punto. Cioè, sappiamo tutti quanti che cosa vuol dire il consenso in certe aree geografiche, purtroppo. I compromessi a cui i politici, diciamo in termini di raccolta del consenso, i compromessi a cui devono scendere. Però Rizzo, Mastella dice non conviene in fondo ai partiti mettere persone. Non è vero, perché la storia dimostra che anche in passato le liste elettorali sono sempre state piene di persone discusse e discutibili. Ora non, diciamo, qui sarebbe troppo lungo fare la casistica, ma Mastella sa bene, essendo stato lui un politico anche nella cosiddetta Prima Repubblica, sa benissimo che queste situazioni si verificavano anche ai tempi della gloriosa Democrazia Cristiana. Vediamo se un paio di ascoltatori, poi torno da Diodato e Mastella. Stefano da Roma, buongiorno, sia sintetico, ci dica come la pensa. Pronto? Dica Stefano, chi deve controllare? Allora, dunque, io la penso in maniera purtroppo abbastanza rassegnata, cioè le democrazie in cui esistono queste situazioni le conosciamo bene quali sono. Insomma, sì, ci sono anche dei casi sporadici nei paesi più civili, però insomma in Turchia si verificano queste cose. Perché in Turchia? Cioè, chi deve controllare? In Turchia ci sono molti politici che hanno delle pendenze penali. Io non lo so. Quello... in Turchia che... lei non lo sa. Non sono esperto della politica turca. Sì, no, però noi ne abbiamo altrettanti di politici che hanno queste problematiche, per cui però è giusto questo ragionamento, cioè il politico che proviene da un tessuto sociale come il nostro rappresenta degnamente i cittadini. Questo ecco, sì, però risponda a chi deve secondo lei controllare. Mi faccia terminare, se parla lei non posso. Allora, l'unica barriera dovrebbe essere una legge, come diceva Mastella, non essendoci una legge, lei capisce, dovrebbe essere una legge gestita da magistrati. La legge la legge è applicata dai magistrati, grazie Stefano, la legge, come ha detto Mastella. Oreste Avellino, buongiorno. Buongiorno. Dica, Oreste. Allora, io insomma ritengo che il controllo sia sempre un atto relativo che fa riferimento a un confronto con uno standard, eccetera, che non c'è. Quindi io parlerei più che altro di valutazione e quindi di giudizio. Il controllo non è attribuibile solo ad una parte, al magistrato, alla legge, eccetera, ma occorrerebbe effettivamente un controllo sociale che parta dal consenso. Ecco, per esempio, io come elettore gradirei molto leggere il curriculum del politico, ivi compreso anche la fedina penale, eccetera. Come si fa un po' con i concorsi pubblici. La fedina penale, perché poi alla fine se uno che ne so, Oreste, pubblica, ho capito, ma Oreste uno per esempio è indagato per Camorra, che fa? Mette sul curriculum sono indagato per Camorra. Guardi, se il politico comunque deve rendere disponibile una parte del proprio tempo di vita per la collettività, è anche giusto che la collettività conosca anche dei fatti che poi possono avere una ripercussione. Ho capito, ma Oreste, se lei è un politico, sinceramente metterebbe sul curriculum: scusate, sono indagato per Camorra, sono innocente, abbiate fiducia, indagato per Camorra, no? Ecco che qui non è solo l'elettore che deve fare in qualche modo la valutazione. L'obbligo, bisogna metterlo. Un obbligo di legge da una parte, dall'altra il magistrato che verifica il rispetto dell'obbligo di legge, dall'altra parte i partiti che in qualche modo si rendono garanti della trasparenza. Si parla tanto di accountability. Che significa l'accountability, la trasparenza, eccetera? Non è solo nei conti, perché poi il conto è uno strumento finale, insomma, di una gestione, eccetera, ma è anche in chi poi redige quel conto. La ringrazio, Oreste. Carlo Lucarelli oggi sull'Unità, vorrei su questo un parere di Mastella, dice: la politica la fanno anche i cittadini, e quindi se ci sono impresentabili lo sappiano gli elettori e non votino quei partiti. Mi sembra un po', sarebbe bello, è un po' un'utopia però, Mastella, che i cittadini controllino. Non c'è Mastella. I cittadini fanno le loro scelte evidentemente rispetto a chi è stato indicato, quindi possono scegliere tra le persone che ci stanno, ma devo dire la verità, io per quanto mi riguarda, ripeto, io accetto che ci sia, ripeto, una norma di legge che stabilisce un'autorità neutra che si assume anche le sue responsabilità nel dire sì e no. Io ti presento i candidati del partito e tu mi dici quelli sono impresentabili. Il problema è il prima, non è il dopo. Sì, cioè fare una cosa preventiva. Ma su questo Diodato, aspetti perché il cellulare è sempre un po' che va e viene. Diodato, ma è vero che lei pende su di lei un rischio di decadimento, insomma, una questione. Questo è stato escluso dagli avvocati. Comunque, insomma, gli avvocati suoi. No, perché la pena, la sospensione della pena principale copre anche le pene accessorie. Ma però mi risulta che si debba deliberare in merito in consiglio regionale. Perché il prefetto, insomma, ha detto non è di sua competenza, l'ha mandato all'organo competente che è il consiglio. Ma il problema non è singolo. Io volevo dire una cosa. In primis il controllo sui partiti. Io, da esponente di AN, 2 anni fa ho denunciato pubblicamente, non avendo ottenuto soddisfazione, esponenti di AN che arruolavano gente in odore di camorra. Infatti sono stato querelato, ci sono processi in corso, lunedì scorso è stato ascoltato Fini sull'argomento. Sono il test principale d'accusa nel processo per i disordini per la discarica a Pianura, quindi ci sono fatti. E quindi diceva bene quel vostro ascoltatore di Avellino che bisogna guardare il curriculum, e a certi livelli il curriculum lo si vede, lo si controlla. E poi tra l'altro paradossalmente quelli che hanno qualche problema penale, una volta in lista, possono essere monitorati. La verità è che soprattutto nei comuni della provincia di Napoli e del Casertano ci sono soggetti illibati, ma che sono organici ai clan camorristici. Allora questo tipo di indagine chi lo svolge? Senta, ma questa di Fini, no, me la ripete, ma è una notizia che ci ha dato, io non lo so. Sergio Rizzo, hai sentito? Io non lo so. Fini è stata ascoltata dai magistrati su cosa Diodato? Alle ore 11 lunedì scorso, teste, perché era segretario di AN quando il sottoscritto denunciò pubblicamente che la segreteria provinciale di AN a Napoli, quindi fatti, nomi e circostanze, aveva iscritto e addirittura dato incarichi di partito a soggetti organici a clan camorristici. Ma ci ha dato, non lo so, ci ha dato una notizia Sergio Rizzo, tu lo sapevi? Io non lo so. No, io non lo sapevo. Che Fini sia stato ascoltato come teste. Diodato, ma c'è è uscita sui giornali sta cosa? No. È uscita all'epoca, è uscito che Fini anche è stato. Questa di Fini, l'hanno ascoltato presso la presidenza della Camera. Ah, vabbè. Quindi, non ci può dire niente, ovviamente, io immagino sarà. No, io non ero presente, c'era il mio avvocato, ovviamente. E tra l'altro, ripeto, sono stato la settimana scorsa in tribunale a confermare le accuse per la rivolta di Pianura antidiscarica. Imputati esponenti del mio partito. Quindi questi sono i fatti. Va bene, mi fermo qui. Grazie Pietro Diodato, Sergio Rizzo del Corriere della Sera e Clemente Mastella, con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi do appuntamento come di consueto a lunedì. L'appuntamento invece adesso è con Oscar Giannino, parla di università. A te, Oscar.